Sconvocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Iago ha superato Romagnoli, mette fuori per Giaiz, il suo destro, Belotti, il gol, sotto porta non perdona, il Toro avanti dopo 21 minuti. Obi si infila, Obi sotto porta, Obi, Donnarumma, Belotti non si arrende, aggancia di nuovo il pallone e poi sotto porta Benassi, ha raddoppiato il Toro, è 2-0. Calcio di rigore, vediamo se Donnarumma è capace di... Attenzione, ecco il tiro. La parata di Donnarumma e poi l'errore. E la partita si riapre. E la partita si riapre. Calcio di rigore, dice Tagliavento. Spinta in area. Paletta l'ha subita. Indica il dischetto Tagliavento. Parte Bacca. È 2-2. In 14 minuti il Milan è tornato in partita. Il Milan. Io credo che per poi far prevalere i valori tecnici e tattici, casomai c'è bisogno intanto quantomeno di pareggiare a livello agonistico, e noi nella prima parte non lo eravamo. Eravamo appena sufficienti, e ho detto prima, non demotivati, ma appena sufficienti, ma non basta. Non c'è bisogno di ingegneria nucleare per fare questa analisi, perché si è visto, purtroppo abbiamo ripetuto gli stessi errori. Devo dire che non sono arrabbiato, ma infuriato e molto deluso. Pareggiare questa partita è stato folle, perciò non sono riuscito a fare salto di qualità. Io da un po' di tempo che mi faccio queste seghe mentali per capire come, cosa, tutto, ma mi sa che ci prima vado io da psicologo che loro. Però non voglio più parlare di Europa, perché inutile parlare se continuiamo a buttare punti così. Dunque, non serve un ingegnere nucleare, ma uno psicologo, dice Sinisa Mihajlovic, che regala sempre in ogni conferenza stampa. Un bel 2-2 quello di ieri sera, la coda di una giornata di campionato estremamente interessante. Io andrei anche un po' controcorrente, non so se contro Mihajlovic, perché insomma mi sembra un pari di segno positivo per il Milan, dato quello che è successo in campo. Oggi Pardo è impegnato con le Ferrovie dello Stato, almeno per il momento, poi lo troviamo dopo, con Trenitalia, ma Maurizio Crosetti da Repubblica c'è. Eccoci, sì, io ciao. Sono nella mia cuccetta qui, in redazione, quindi ho anche pagato il supplemento, quindi... Hai pagato il supplemento rapido? Certo, è rapido, Dio, ormai non tanto, però... No, sei d'accordo con me, Maurizio? Cioè, una partita già persa, poi Mihajlovic non è arrabbiato ma infuriato, gli serve uno psichiatra, uno psicologo, non un ingegnere nucleare, eccetera, eccetera. Il Toro la partita ce l'aveva in mano. Sono d'accordo con te, anche se devo essere onesto, io questa partita non l'ho vista, perché ieri sera durante lo svolgimento della medesima ero affaccendato, ero a una festa mondana imperdibile, e cioè la presentazione del nuovo logo della Juventus, evento rispetto al quale la fantasia di Paolo Sorrentino con i trenini e a far l'amore comincia tu impallidisce. Mi sono molto divertito, come quando da bambini si andava allo zoo. È stata un'esperienza antropologica anche abbastanza inquietante, ma questo mi ha impedito purtroppo di vedere la partita. Allora, Eris Caletto, ma parliamone subito. Abbiamo ieri la sera dei teatri, delle presentazioni, poi mi spieghi tutte queste tue sensazioni. Però abbiamo Nedved e Buffon che nell'ordine parlano del nuovo logo. Il cambio del logo sta a significare proprio che è un brand talmente universale che può racchiudere veramente tanti aspetti, ecco, della nostra vita e non solo quella sportiva. Non so perché, ma da primo momento, da quando l'ho visto, quella J lì mi piace molto. E visto che parlavamo di zoo, Maurizio Crosetti, io chiedo anche a tifosi juventini e non se gradiscono questa variazione in onore del marketing e del merchandising, come si dice oggi. Visto che parlavamo di zoo, sparisce anche la zebra dal logo della Juventus. Beh sì, è il futuro, probabilmente prima o poi leveranno anche le righe bianche e nere, No, pensano, questi sono i fenomeni della grafica, no? Pensano, e non succede soltanto nei marchi sportivi purtroppo, ma anche in altri settori, pensano che cambiando un po' con la forma cambia anche la sostanza, pensano che si sfondi su un mercato globale internazionale perché ci impieghi 18 mesi per partorire una J, no? Ma sì. Però io col massimo rispetto per i grafici e la grafica, credo che anche per i quattrini che avranno preso? Che avranno preso i grafici, certo, ma non credo che questo marchio ne faccia moltiplicare alla Juventus, però poi non mi interessa, io non sono né un finanziario né un finanziere, però credo che il calcio e lo sport non siano un brand, anche se questa è una parola che ha riempito molto la bocca. Ieri sera Andrea Agnelli ha parlato di mainstream, dice voglio sapere cosa pensa una bambina a Mexico City, un millennials. Secondo me chi parla troppo di brand è esagerato col brandy. Sì. Certe volte capita, comunque show hollywoodiano, ormai siamo a Star Wars, no? Beh, in effetti sembrava ieri sera, perfetto, sembrava il bar del primo Star Wars. Devo dire che vi ricordate quando c'era l'orchestrina con quegli animali strani, con la proboscide? Io scherzo e rido perché non sono mondano, però del resto se prendete un pinguino lo mettete all'equatore e poi gli chiedete non t'ambienti, lui vi guarda un po' strano, no? Quindi io sono un pinguino all'equatore, però credo davvero che non c'entri niente. Quello che ho visto ieri sera è stato così, una bizzarra, divertente, imbucata, ma alla fine anche un po' triste vedere quella sfilata di personaggi. No, posso dire, il calcio è un'altra roba, però ognuno ha la sua opinione. Secondo me il calcio è la partita e sono vecchio, sicuramente sono vecchio. Sono io che non capisco i millennials e il mainstream, sicuramente, per carità. Guarda che fai la fine della zebra, Sì, basta. Povera zebra. Poi però la zebra è un'altra roba. La zebra è quella che va in campo e spesso, a parte quattro volte quest'anno, vince. Poi tra l'altro nuovo brand presentato a Milano, nella capitale mondiale della moda. Mica Torino, mica nella provinciale della moda, Torino. Ma io sono un torinese rosicone, perché sai, noi siamo passati alla storia perché siamo quelli dell'understatement del pisa più curt, che vuol dire fai la pipì più corta, un vecchio proverbio. Che i vecchi dicevano quando uno esagerava, no, e si allargava, sì. I vecchi dicevano pisa più curt, piscia più corto. Ieri sera avrei voluto dirlo anche ad Agnelli, a John Elkann, alla Juventus, al brand, pisa picure. Beh, lo facciamo attraverso queste onde che si diffondono in tutto il globo terracqueo. Bene, ci fermiamo un attimo per il traffico, stai con me Maurizio. Tutti convocati. Dunque, mentre ricevo vari messaggi a tutti i navigatori dell'etere in ascolto, vorreste veder cambiato il logo della vostra squadra? Vi piace quello della Juventus o preferireste piuttosto un portiere, difensore, centrocampista, attaccante in questo gennaio? Crosetti, ti stimo, scrive qualcuno. La nostra amata zebra va in pensione, speriamo che ci vada pure Buffon, scrive Federico. No, questo no. Ieri qualcuno ha fatto una battuta, eravamo al Museo della Scienza, un posto tra l'altro bellissimo, l'unica cosa bella della serata ieri sera era il contenitore, che è un museo che invito tutti a visitare, ci sono vecchi sottomarini, vascelli, feluche e c'è anche l'una rossa appesa al soffitto del museo. Un buon tempone ha detto tra un po' li appenderanno anche Buffon, lo avrei morsicato, questo no. Lo avresti morsicato. Senti, a proposito della partita che in omaggio a questo viaggio nel mondo futuro e virtuale non hai visto, Torino e Milan mi sembrano due belle squadre da terra di mezzo in un campionato spaccato come non mai, lotta retrocessione inesistente, un ventre del campionato che propone squadre che sono lì ma non sanno bene dove andare né che fare. Col mercato a impatto zero del Milan, Milan e Torino sono due candidate all'Europa League. Mi sembra tutto in ordine, no? Sì, sì, mi piace molto questo ragionamento. E poi per la strana fantasia del calcio, l'uomo che sta realizzando questo, anche seppur nella terra di mezzo a Torino, è l'allenatore che non è riuscito a realizzarlo a Milano, contro la squadra che ieri sera non è riuscito a battere, perché è così, perché si gioca anche al gioco degli incroci nel calcio. Però certamente il capitale zero del Milan e la fantasia 200 del Toro mescolate danno un cocktail, ormai purtroppo sono sempre lì, una specie di mojito, ma non riesco a staccarmi dalla serata di ieri sera. Quindi no, perché a un certo punto c'era anche scritto Juventus black and white and more è un cocktail. È anche un cocktail. No, quindi è vero, però in effetti è una terra di mezzo che a me piace, anche se poi in realtà già quasi tutto è deciso in fondo. sotto sembrava deciso in testa, ma forse non era così. Nel mezzo sì, c'è quest'area un po' bislacca, che però tra l'altro sta producendo un sacco di giocatori nuovi, giocatori giovani. Bravo. Secondo me Ventura è contento di una stagione così. No, ma sono anche giocatori diversi, mi pare. Poi sì, è comunque un tema su cui sarei tornato. Mi sembrano giocatori diversi, molto meno legati ai nuovi, che ormai non sono più nuovi, status symbol del giocatore, la macchina, il pattaccone al polso, un sacco di tatuaggi spalmati sulla pelle. Mi sembrano giocatori un po' diversi. Guardo Chiesa, guardo Gagliardini, guardo Benassi, che ieri sera ha fatto un giocatore che nel cuore vi sta, che ha fatto un gran gol di tacco al Milan. Mi sembrano anche ragazzi un po' diversi. Sì, ma è vero, ma chiunque abbia figli e amici di figli per casa ha capito come da almeno un paio di generazioni sia finita un po' quell'onda anomala delle anche lì della grafica, no? Scherzavamo all'inizio, nel senso della forma che qualcuno scambia per sostanza, anche se nei giovani questo può essere effettivamente un giusto e anche comprensibile modo per distinguersi. Però mi sembra che, cioè, appunto, chiunque abbia figli o amici di figli sa che queste sono generazioni di ragazzi di grande sostanza che navigano in mari difficili sia nel lavoro che nella scuola. E però hanno ripeto, una grande voglia, hanno quasi di nuovo fame, no? Dopo tante, sì, generazioni di benessere, la nostra è stata la prima, la, sì, mia almeno, vera generazione di benessere. Comunque non voglio fare della sociologia facile, ma certamente non mi stupisce vedere nel calcio quello che mi pare di accorgermi frequentando, per mia fortuna, molto, molto i ragazzi, che sono indubbiamente, ma senza proprio voler fare le captazze benevolenze, la parte migliore di questa nostra società. Maurizio, ieri ho raccolto e respinto al mittente, come secondo me era giusto, critiche perfino nei confronti di Dybala per la partita con la Fiorentina. Dybala, se ci mettiamo a criticare Dybala, allora io mi alzo e mi arrendo. Però che tipo di paura deve avere questa Juventus? Tecnica, emotiva, come diceva Phil Jackson, l'ho citato ieri, di noia quasi, questo lo diceva alla vigilia del suo sesto e ultimo titolo con i Chicago Bulls, oppure nessuna delle suddette? No, noia no di certo, semmai il rischio di abituarsi alla facilità con cui si fanno le cose e quindi il rischio di farle poi con la mano sinistra. Succede anche a grandi artisti, il manierismo, sì, il ripetere i propri gesti, scrivere sempre lo stesso libro, filmare sempre lo stesso film e provare a vincere sempre la stessa partita nello stesso modo. Succede ai grandi quando si fanno un po' il verso. Certo non succede Dybala, a cui è rimbalzata male una palla, Dybala che non starà forse vivendo il suo periodo migliore da quando è alla Juve, ma secondo me rimane la cosa più bella. Rimane la cosa più bella della Juve dal giorno in cui si è ritirato Del Piero. Secondo me Dybala è la cosa più bella della Juventus, è bella esteticamente anche, sì, ma sì, anche il vero motivo di cambiamento delle partite, delle azioni. Non c'è un pallone banale, non c'è un tocco banale, un giocatore meraviglioso secondo me, che ancora ha espresso una minima parte, o comunque non la massima parte di quello che può esprimere. Sarebbe terrificante per la Juventus venderlo, sarebbe grave anche a fronte di una gigantesca offerta. Non è Pogba, senza offese, con tutto il rispetto, Pogba che manca moltissimo alla Juventus. Sì, ma anche a Manchester United, per la verità, sì, che non l'hanno ancora visto. Sì. Questo è vero, però Dybala non si discute. No, ma un'ultima cosa che ti chiedo, visto che parlavi di mercato, di mercati improbabili, che effetto ti fa il virus impazzito, iniettato nel mondo del calcio dalla Cina? Allora, Pelé guadagna quanto in Cina, quanto Higuain nella Juventus, tanto per darvi un termine di paragone. Vorrebbero Kalinic, i cinesi, la squadra di Cannavaro. Kalinic guadagna, appena rinchiostrato, per circa 2 milioni a stagione con la Fiorentina più bonus. Questi gliene darebbero 12-14. Sono cose irreali con cui non puoi fare, non puoi nemmeno metterti a ragionare. Non solo, ma non puoi neanche confrontarti sul piano di crescita che serve a qualcuno. Cioè, come se a un certo punto fosse arrivato un'astronave, esatto, da Saturno, qualcosa di irreale, e avesse caricato tutti i più grandi giocatori, o potesse caricarli per rapirli semplicemente. Cioè, poi giocheranno su Saturno e si divertiranno tra un anello e l'altro, però non serve a niente questo, nel senso che serve a loro, che guadagnano tantissimo, ma guadagnano tantissimo anche in Europa i calciatori di primo livello. Quindi non vedo, semmai ecco, i soldi dei cinesi nel nostro calcio, nel calcio europeo, possono servire, possono dare movimento, aumentare il mercato, la concorrenza, eccetera. Ma se viene qui Saturno siamo contenti, ma se ci portano via su Saturno quello che abbiamo, il giocattolo, non va tanto bene, secondo me. Maurizio, grazie, sempre un piacere. A te, ciao ciao. La dose settimanale di Maurizio Crosetti. Massimo Zampini, ho tre domande per te. Buongiorno. Ciao, ciao, ciao. Buongiorno a voi. Ciao, allora io ho tre domande per te, come diceva Ligabue. Chi prende l'Inter, dove mi porti e poi soprattutto perché? No, non sono queste. Allora, domanda numero uno, ti piace il nuovo logo della Juventus senza la zebra? Apua? Non Apua? Sì, sì, mi ci abituerò, nel senso il primo secondo in cui l'ho visto ho pensato poi man mano già nel corso della serata mi piaceva di più e oggi mi sembra già familiare, quindi come per una bella canzone che all'inizio ti fa un po' storcere il naso, non la capisci, storcere la bocca, devo dire che poi mi piace, già mi sembra un ritornello orecchiabile adesso. Ti sembra un ritornello orecchiabile e commercializzabile. Seconda domanda, chi deve comprare la Juventus? Siamo tanti, quindi servirebbe solo, lo sappiamo, un innesto qualitativo, ma molto qualitativo a centrocampo, perché se no i vari Lemina, Sturaro, Rincon e compagnia e gente da buona Serie A senza nessun problema. E quindi se trovi qualcuno di superiore, pronto ora, magari anche per la Champions, bene. Ma ho il sospetto che a gennaio non sia facile, quindi siamo fin troppi però, e qui arriviamo alla terza ed ultima domanda per Massimo Zampini, hai paura e se sì di chi in campionato? La Roma, io lo dico sempre, secondo me, come sai te lo rinfaccio ogni volta, una squadra che ha 15 giocatori e che in panchina domenica praticamente di praticabile aveva solo Francesco Totti, che peraltro è entrato anni 40. Vabbè, perché ora c'ha Salah fuori per la Coppa d'Africa che torna tra poco, quindi la Roma, no, ma la Roma è solida, Spalletti è bravo e sarà un campionato equilibrato, come io ripeto te lo rinfaccio e te lo rinfaccerò sempre, se non vinco soprattutto. ho sempre detto da inizio anno non è affatto un campionato scritto e scontato, secondo me è scritto e scontato e alla fine non sarà nemmeno equilibrato, la chiudiamo, la chiudiamo così in rima, caro Massimo. Tanto ci aggiorniamo tanto ci aggiorniamo. Ciao, grazie Massimo. Zampini, allora abbiamo introdotto un po' di temi, 800 24 00 24 il numero verde, temi su cui poi torneremo e ne apriremo degli altri, perché ieri sera tra l'altro è stata la serata dei palcoscenici, non solo quello milanese di presentazione del nuovo logo della Juventus, ma anche quello della San Carlo di Napoli, che è stato prestato a Maradona e al mondo del calcio, e molti intellettuali non l'hanno presa benissimo questa apertura delle sacre porte di uno storico teatro italiano a Diego Armando Maradona. Bah, ci sentiamo dopo. Tutti convocati. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Fineco, la banca che semplifica la banca. Vi presenta... State ascoltando un programma offerto da... Tutti fanno pronostici, non tutti nel posto giusto. Scommetti nelle agenzie SNAI o su SNAI.it. SNAI, the playmakers. Tutti convocati. Beh, un bel dibattito sulle maglie oranzoda della Roma lo possiamo pure fare. Io, insomma, ho una particolare avversione per quelle sfumature, per quelle mille sfumature che caratterizzano molte magliette, molte ovviamente seconde e terze maglie in questa stagione, però questione di gusti, siamo ai colori da evidenziatore e quelle magliette non mi piacciono, anche se il top rimane il top dell'orrido, se vogliamo parlare di magliette, 800 24 00 24, il top dell'orrido rimane la maglietta con cui il Barcellona qualche stagione fa si presentò a Milano perdendo giustamente peraltro contro il Milan. Dunque so che non, insomma, ho detto sparisce la zebra dalla maglia della Juventus, quello del famoso logo ovale non era una zebra, ma da qualche anno un toro, questo lo sapevo, però quel simbolo ovale ben riconoscibile era presente sulla maglia della Juventus ormai da moltissime stagioni, mentre adesso il brand della Juventus si fa un po' più trendy e forse, chissà, un po' più internazionale. 800 24 00 24 è il numero verde. Sono curioso anche di sapere come la pensate su questo campionato in cui esiste un'ampia terra di mezzo. Io non ricordo a memoria, e vado indietro parecchio con gli anni, una stagione in cui praticamente la lotta retrocessione non esiste, in cui ci sono diverse squadre che non sono, ad esempio, la Fiorentina, ma a pieno titolo l'Atalanta, la Lazio e ci metto anche il Milan, queste hanno legittime ambizioni e possibilità di entrare non dalla porta principale, ma magari da quella secondaria in Europa. Aldo da Mantova, buongiorno. Aldo? Dove sta Aldo da Mantova? Mi è sparito dai radar Aldo da Mantova. Più tardi voglio parlare anche di questa polemica che qualche intellettuale ha lanciato sul fatto di prestare Maradona, che secondo me è un'opera d'arte vivente, insomma un'opera di arte contemporanea, sono state certe giocate di Maradona, di prestare a Maradona insieme al bravissimo Alessandro Siani il palcoscenico di uno dei teatri più prestigiosi d'Italia. Intanto Paolo da Torino, buongiorno. Sì. Ragazzi, mi fate gli scherzi telefonici oggi? Paolo? No, pure Paolo è caduto. Insomma, oggi è il giorno in cui Gianmarco Ferronato in regia e Alessandro Marcottulli, il nostro autore, mi fanno gli scherzi telefonici. Che volete che vi dica? Vi faccio sentire invece il Maradona di ieri sera al San Carlo di Napoli, dove c'è stato ovviamente il tutto esaurito come ogni volta che si esibiva ovunque Maradona. Non so se abbiamo ripescato Aldo e Paolo o sono degli altri scherzi telefonici. Aldo c'è? Aldo? Pronto, ci sono. Oh, eccola lì. Scusate, dica. Ma col viva voce è stato un problema. Viva voce, no, ve lo dico subito, telefonate tutti quelli che volete, ma viva voce non funziona. Solo che sono in macchina. Niente, io volevo fare un commento su Allegri. Allora, in questi anni, già quando era al Milan, ho visto che nel girone di ritorno, diciamo da febbraio in poi, ha sempre fatto benissimo con la sua squadra. Lo scorso anno idem, quest'anno siamo partiti noi come Juventini molto bene, quindi ho una certa fiducia in quello che sta facendo. Purtroppo vedo che ogni tanto fa delle scelte che non sono azzeccate, tipo col Milan a mettere un Lemina al posto di Nasamoa a marcare Soso e gli altri, e mi sembra che probabilmente la Juve abbia la possibilità di poter riprendersi un po' di distacco rispetto a quello che si vede normalmente nel campionato italiano. Bah, guardi, io la classifica la considero per quella che è, cioè Juventus una partita in meno con il Crotone. Non credo che la Juventus perderà né pareggerà quella partita, quindi potenzialmente 4 punti di vantaggio sulla Roma. Le scelte sbagliate le fanno tutti, compreso gli Aici ieri sera con quel tiro. Beh, è una Roma bravissima a non muoversi fino all'ultimo istante. Abbiamo visto Dzeko tirare un rigore orripilante contro l'Udinese, è stato definito molle dal suo ingeneroso allenatore Spalletti. Gli errori li fanno tutti, quelli di Allegri non mi sembrano moltissimi. In realtà a me sembra che la Juventus stia vivendo questo momento come così, con un approdo preciso, che è quello del momento in cui ricomincerà la Champions League. Ora non sto a parlare di preparazione diversa, di cose di questo tipo, perché ne so davvero poco, non so come abbiano lavorato nello specifico quelli dello staff tecnico della Juventus, però l'obiettivo della Juventus è arrivare con una faccia precisa, una faccia definita, magari con mercato compreso, al momento in cui ricominceranno i giochi veri. e continuo a pensare che insomma un po' il fattore noia, non in termine che può sembrare eccessivo, possa attraversare magari inconsciamente le menti juventine. Non voglio fare nemmeno quello psichiatra, lo psicologo, lo psicanalista, però insomma è un campionato che io non vedo come possa sfuggire ad Allegri. Giorgio, buongiorno, anzi Paolo prima, buongiorno Paolo. Sì, buongiorno, buongiorno. Ma niente, volevo solo fare una precisazione, visto che vi sento dire che dal nuovo simbolo della Juve si è estinta la zebra, ma in realtà si è estinto, si è estinto il toro, sì, lo so. Non c'era mai stata, ok. No, c'era in tempi molto remoti, però insomma io dico il logo, quello ovale in cui è presente la scritta Juventus, cioè i colori bianco e neri, cioè il toro, simbolo di Torino, era qualcosa di ormai di storico. Sparisce, ma spariscono mezza stagione, sono spariti da un pezzo, e anche gli spettatori dagli stadi, ma comunque questi sono altri discorsi. Ha fatto bene a precisare, era il toro, sì, certo, lo sapevo, grazie Paolo. Giorgio. Sì, buonasera, innanzitutto vi ringrazio e complimenti per la trasmissione. La considerazione che volevo fare sulla Juventus è questa, che non si può criticare Marotta, Paratici, perché ogni anno cercano sempre di irrobustire la squadra, però ogni anno sembra sempre che manchi qualcosa. Quando ci sono degli attaccanti forti abbiamo un centrocampo più debole, o viceversa. Eravamo abituati a Vidal, Pirlo, Pogba, con Marchisio che a volte faceva fatica a rientrare, e oggi dobbiamo accontentarci di un centrocampo dove la luce praticamente manca. Quindi se questo va bene per il campionato, e sicuramente potrebbero non esserci problemi, non possiamo pensare di continuare a giocare in Champions League senza avere qualcuno che illumini il centrocampo, o dove i giocatori della Juventus, come in alcuni casi, davano la palla a Pirlo o Pogba quando non sapevano che fare, e poi loro inventavano qualcosa. Sì, in ogni caso alla Juventus manca un metronomo, e per questo, mentre riflettevo prima, mi è venuto in mente Antonio Di Gennaro, che quel ruolo svolgeva un paio d'anni fa nel Verona scudettato. Ciao Antonio. Buongiorno a voi. Non è che voglio ritornare a giocare? Se perdo 16-17 kg, sì. Beh, no, ma sul serio, alla Juventus manca un giocatore con le caratteristiche che avevi tu, no? Beh, l'anno scorso e anche gli altri anni, cioè quando c'era Pirlo, ovviamente era quello che dava grandissimo spessore. Poi quando mancava lui giocava Marchisio, si è anche un po' adattato, si è anche affinato in quel ruolo. L'anno scorso l'ha fatto molto bene, poi l'infortunio ha tolto un po' alla Juventus questa capacità. Ricordiamoci l'anno scorso, ti ricordo, feci Roma-Juventus, giocava Padoin davanti alla difesa, sì. Questo vuol dire che avevano ovviamente delle esigenze. Io ho sentito un po' anche la tua analisi, mi sembra anche giusta, perché non vedo la Juventus come possa perdere il campionato, ha una partita da recuperare, quindi sulla carta va a 4 punti, che penso quel Crotone, non dico sarà una passeggiata, ma quasi, e però deve ritornare a livello proprio mentale. Nel DNA della Juventus non c'è questa, diciamo, capacità di rischiare, di dare troppo all'avversario, perché nell'ultimo periodo si è notato questo, Allegri si è arrabbiato tantissimo. La mentalità Juve non è quella di essere così talmente così non controllare la partita, oppure offrire dall'altra parte grandi occasioni e rischiare così tanto. Io non me la ricordo, non ce l'ho presente, non è proprio nella sua caratteristica proprio di squadra, di gruppo, dello zoccolo duro. Ricordiamoci dopo Sassuolo l'anno scorso, proprio il gruppo della difesa, la BBC, con Buffon si presero in mano tutto e fecero capire, sia a livello di dichiarazione sia a livello proprio di cultura del lavoro, che la Juventus non doveva più concedere. Ecco, deve ripartire da quelle prospettive, da quelle prerogative, perché hai detto bene tu, la Champions comincia a farsi vedere, vicina, e quindi ci vogliono tutti i giocatori al massimo. Il mercato non so cosa potrà dare a gennaio, è difficile, è un mercato sempre di riparazione, sì, esatto. È normale che cercheranno un centrocampista che possa dare un qualcosa in più, ma poi i Pirlo, i Vidal, i Pogba, dove li trovi adesso? È molto molto difficile, quindi stanno programmando, stanno investendo anche sul mercato italiano. L'ultimo, diciamo, talentino è questo Orsolini, hanno sicuramente in prospettiva qualcosa sul centrocampo, ma cosa vanno a prendere Zonzi che piace a 30 milioni a gennaio. Non serve a nulla, Antonio. Il metronomi, i registi veri non è facile, anche perché Marchisio viene da un incidente diciamo importante, l'uomo incrociato, e magari non può dare per 3-4 partite di seguito, quindi in questo si devono un po', non dico adattare, e poi devono arrivare appunto in febbraio, marzo, aprile, che sono i mesi per tutti decisivi. Ma secondo me lì Allegri ha messo la bandierina. Sì, è lì che Allegri ha messo la bandierina. Però deve dare anche una, ecco, Firenze hanno concesso talmente tanto che tu dici il centrocampo ok, ma non c'è, perché i Chedira se sta bene, i Marchisio se stanno bene, lo stesso Sturaro che si completa con loro, perché se Chedira non gioca non sta bene, lo stesso Marchisio, Sturaro non può prendere in mano la situazione, non ce l'ha nelle sue caratteristiche. Diciamo, faccio un esempio, di Gennaro Gattuso, centrocampista di cuori, sostanza, interdizione. Quando Pirlo, i Kakà, i Seedorf erano al massimo, Gattuso faceva la grande partita, ma se loro erano al di sotto, Gattuso non poteva impostare, mi sono spiegato come concetto. Ma perfettamente, ma il discorso poi ti riporta sempre, ieri eravamo grosso modo tutti quanti d'accordo, da Pardo a tutti gli ospiti che c'erano, nel dire che l'ago della bilancia è Pjanic, e che è Pjanic quello che forse doveva essere quel giocatore, ma Allegri non ha ancora trovato il posto giusto dove inserire questo tassello per farlo rendere al meglio, al di là del kicker, cioè dello specialista delle punizioni. L'esclusione di Firenze ha destato un po' così di, anche da parte mia che ho commentato la partita, siamo rimasti un po', perché ultimamente lo schieramento a 4 e diciamo quasi il doppio trequartista Pjanic e Dybala mi sembrava una scelta giusta, anche perché Pjanic cosa fa? A volte indietreggia lui, può dettare lui i tempi di gioco quando magari Marchisio è pressato. Invece domenica sono stati presi poi in maniera talmente intensa, aggressiva da parte della Fiorentina, che ha fatto la partita perfetta, l'ha preparata in quel modo, l'ha finita. Bel bigliettino d'amore che Paolo Sosa ha mandato alla signora. Bel bigliettino d'amore. Di Kalinic, che insomma lo davano con questa ondata cinese al Sanji di Cannavaro, ha fatto la partita strepitosa da grande giocatore. A quel punto i 50 milioni, anche se per me sono ancora eccessivi. Ti faccio una domanda banale ti riporto a fare il giocatore. Per un istante ti faccio una domanda banale e poi ti saluto, ma se tu prendi 2 milioni di bonus l'anno e da un'altra parte del mondo ti dicono ok, vieni a seppellirti calcisticamente qui, ma per 12-14 tu cosa fai? Beh, sono tanti, però bisogna dire anche l'età. Tevez a 33 anni ci sta, anche se lì Karnic 29 ho capito, ma cosa ha vinto? Nulla. Però io ci sono stato, ecco. Domenica c'è stato un tripudio, uno striscione, una curva fiesola tutta per Giancarlo Antognoni. Questo potrebbe riportare qualcosa, dare anche un segnale, diciamo un avvertimento, che non esiste soltanto di denaro. Lo so che è difficile parlare in questi termini, però io come Kalinic cercherei di andare in un club perché ha le caratteristiche per vincere qualcosa. Poi sono 12-14 milioni, sono tantissimi. Lo stesso Oscar è andato in Cina a 25 anni, io dico capisco sui 30-32, anche se è un mercato che in prospettiva futura vogliono aumentarlo perché vogliono fare i mondiali oltre 2026. Ho capito, però vai a seppellirti calcisticamente, come io non vedevo un grande scandalo un'idea di Eto'o ai tempi, aveva la sua età, aveva già vinto tutto. Gli hanno offerto una quantità di soldi irreale per andare a giocare ai confini dell'impero russo e lui ci andò. Grazie Antonio, ti abbraccio. Ciao, grazie a voi, buona giornata. Come sempre. Siamo in ritardo sul traffico. Tutti convocati. Tutti convocati. Abbiamo avuto qualche problema perché il ticket costava 300 euro. No? Però sai perché l'abbiamo fatto? Perché ci hanno detto che Pelé stava facendo uno per 200. E sempre, sempre quello deve arrivare secondo. Ci siamo incontrati con Diego sabato nei miei uffici a Roma, perché stiamo aspettando che lui risolva questa annosa problematica aperta sempre con l'Agenzia delle Entrate. E dal momento in cui l'avrà risolta potremo finalmente operare insieme. Lui sarà l'ambasciatore del Napoli nel mondo stiamo puntando soprattutto a quei mercati che stanno crescendo a dismisura come Cina, Oriente. Noi rivendichiamo questa vecchia idea, perché De Laurentiis fu il primo a confidarlo in diretta ai microfoni Radio 24, Maradona ambasciatore del Napoli nel mondo. Io saluto e ringrazio un intellettuale come Maurizio De Giovanni, che ieri era al Teatro San Carlo per questa esibizione di Maradona, e ha anche in qualche modo partecipato, no Maurizio? Sì, io accetto con gentilezza questo insulto di essere chiamato intellettuale, innanzitutto, che sì. assorbo con serenità. Assorbo con serenità anche essere chiamato intellettuale. Quando vuoi bene a delle persone ti tieni gli insulti così, insomma. Intellettuale me lo tengo per questa volta. Vabbè, tienilo, dai. Sì, c'ero con gioia, ho avuto la fortuna di essere tra quelli che hanno accompagnato proprio l'esibizione, apprezzando peraltro perfetti tempi da conduttore e da padrone della scena di Diego, che è stato veramente simpaticissimo, oltre che commovente a tratti in più di una situazione, quando si è parlato dei suoi rapporti familiari, della madre, del padre, anche dei rapporti col figlio Diego, che era presente in platea. Quindi devo dire, sono molto contento, è stata una splendida serata in cui Maradona si è riavvicinato a quel cuore di Napoli che non ha mai perso. Mi inchino a te, mio capitano, gli hai detto ieri. Sì, mi inchino a te, mio capitano, perché lui è il capitano e rimarrà per sempre il capitano del Napoli. Cioè, è il concetto di capitano. Un capitano non soltanto come Galloni, un capitano che veramente migliora la squadra con cui gioca, come hanno detto i suoi ex compagni, che si sono visti, che hanno ammesso di essere moltiplicati nel talento dalla presenza di un giocatore così in campo. Siamo stati fortunati tutti, gli innamorati di calcio in Italia. Mai sentito, a differenza di tutti gli altri del mondo del calcio, mai sentito un ex compagno di squadra di Maradona, nazionali comprese, parlare male di Maradona. Mai. Nonostante sia stato un uomo che ha avuto degli eccessi, naturalmente, che conosciamo, tante difficoltà personali, e ciò nonostante è stato universalmente amato da tutti quelli che hanno giocato con lui. Questo credo che veramente, come notava lei, sia un caso pressoché unico nel calcio mondiale. Senti, un'ultima cosa in 8 secondi, cosa ne pensi invece degli intellettuali che hanno detto concedere un palcoscenico storico come quello del San Carlo non va bene per il calcio? Intellettuali, ecco. Meno di 8 secondi, intellettuali meno proprio con la I, con la I molto piccola. Con la I molto maiuscola. Grazie Maurizio De Giovanni. Grazie a voi, buonasera. Allora, ci fermiamo per il giornale radio, poi arriva anche Pardo, arriverà Filippo Maria Ricci, arriveranno un sacco di cinesi con una vagonata di denari per portare via tutti i convocati e trasmetterlo da una radio di Pechino. Tutti convocati. Qui ad Olimpia sono nati i giochi olimpici nell'antichità per onorare Giove. Certe imprese sono possibili solo grazie agli dèi dello sport. Usain Bolt si mette in scia, attenzione che spinge fino in fondo, alto record del mondo! Io sono qui per raccontarvele, sono Dario Ricci e vi aspetta Olimpia, la città dello sport, con i suoi miti, le sue verità, i suoi segreti. Ogni domenica alle 20:30. Naturalmente qui su Radio 24. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. State ascoltando un programma offerto da Tutti fanno pronostici, non tutti nel posto giusto. Scommetti nelle agenzie SNAI o su SNAI.it. SNAI, the playmakers. Convocati. Jovetic lo può portare, Jovetic va per il tiro, Keylor Navas lo respinge, Jovetic all'inizio del 92esimo minuto porta avanti il Siviglia, Jovetic alla sua prima apparizione in Liga da un colpo enorme al campionato e forse chiude la serie di imbattibilità di Zinedine Zidane. Parliamo anche di questo, soprattutto di questo. La dose settimanale di Filippo Maria Ricci non può pure mancare come quella di Crosetti. Ciao Filippo. Buon pomeriggio. Jovetic che stende il Real. Veni vidi vici. Sì, ha fatto le prove generali giovedì in Coppa, un golletto da poco, e poi ha fatto il bis questa volta in maniera clamorosa. Clamorosa sia per il modo, perché ha fatto un gol da cinema o da teatro, visto che stavamo parlando di teatro, e per l'importanza, per il peso specifico. Sì, qualche responsabilità del portiere, che oggi è stato anche un po' bacchettato da Zidane in sede di presentazione alla Coppa del Re di domani. Sì, insomma, che Navas non è piazzato benissimo, però gran gol per il momento, insomma, per quello che vale, per quello che significa, e soprattutto perché ci dà un po' di respiro, no? Non parliamo sempre e solo di Real Barcellona, non parliamo di Liga già finita, e siamo qua, insomma, Madrid ha ancora un bel vantaggio, perché deve, no, a un punto deve recuperare la partita col Valencia, e però è tanto interessante. E poi comunque... Sì, la Roma di Spagna, dai, facciamo la Roma di Spagna, no, è arrivato anche Pardo. È anche più significato, è arrivato anche Pardo, allora sì. Allora... Come va? Com'è la molto bene. Torini a Madrid, ho letto un post. La situazione? Sì, che ieri mi hanno rubato il motorino. Sono rimasto veramente sconvolto, perché non pensavo veramente, dopo tanti anni qua, sinceramente non era, però non so quanto possa interessare agli ascoltatori, però... Ti hanno rubato il motorino? Criminalità, sì, ieri, uno scooter, non male. Anni e mezzo, niente di che, però gira sempre le palle, Filippo. Abbi pazienza. Sì, Madrid o l'auto di Pardo a Milano, poi magari poi ti girano. Però veramente una sorpresa. Io qua, insomma, sono sempre molto rilassato, però si vede che bisogna essere un pochino meno, non so. Però no, devo dire che sì, tu dici la Roma di Spagna, va bene, però qua, diciamo, se vogliamo, è più complicato, perché dimostri non ce n'è solo uno come la Juventus, qua i mostri ce ne sono due e due e mezzo, perché anche l'Atletico comunque non è una squadretta, e voglio dire, San Paolo ha 13 punti più di Emery l'anno scorso, insomma, non è roba da poco. Sì, oggi ne hai scritto l'hai tratteggiato in due lunghe pagine sulla Gazzetta. È un bel calcio, un bel modo di viverlo, insomma, positivo, e insomma, a me fa piacere, devo dire, personalmente. Sì, ovviamente uno è qua come corrispondente, alla fine è neutrale, quando si vedono queste cose qua fa piacere, insomma. Sì. Adesso vediamo come se la cava con l'Ester di Ranieri. Allora, io sto leggendo anche notizie su internet, eccetera. Pare che Abramovic si sia scocciato di sti cinesi, la squadra di Cannavaro, del Tianjin, che vogliono prendersi cose. No, ma io voglio fare una domanda, perché è una cosa che mi manda ai pazzi. Allora, Pierluigi Pardo, tu accetteresti un ingaggio? Il tuo è già altissimo, sappiamo che sei multimilionario, no? Però un ingaggio 10 volte maggiore per Telepimpa, ve lo ricordate, il cane? Guarda, di un nuovo multimiliardario che ha collocato Telepimpa sul cucuzzolo di una montagna. È molto difficile. Filippo Maria Ricci all'eco di Topolinia per 12 volte l'ingaggio della Gazzetta dello Sport. Che l'uomo della televisione risponde prima. È molto difficile, fare i conti in tasca agli altri e giudicare moralmente gli altri, occhio e croce, insomma, considerando che sono tutti ragazzi che guadagnano abbastanza bene, verrebbe da dire che forse una villa al mare, però sai che una villa al mare in più non vale il fatto di uscire dal centro del calcio mondiale. La verità però è che i numeri sono veramente sproporzionati, cioè pensa al caso di Kalinic, no? È proprio una cellula impazzita, cioè, che si è introdotto nel sistema. Kalinic, 2 milioni da 2 a 12-14 di ingaggio, una cinquantina alla Fiorentina, ma andrebbero bene anche 40 per far sorridere della Valle. Abramovic è pronto a non so neanche quale sia l'offerta dei cinesi per Diego Costa, ma per lui si tratterebbe di uno può rifiutare, magari qualcuno di noi l'ha già anche fatto, può anche rifiutare dei fondi pur di rimanere nel posto nel quale vuole stare, Qui però qui è una cosa completamente sproporzionata, qui vuol dire che guadagni 5 volte, 10 volte tanto, e quindi francamente io faccio fatica a fare il moralista con i soldi degli altri, lo dico con rispetto. Certamente diciamo che il prezzo ci sta, no? il tipo di rapporto ci sta, perché la differenza che esiste tra il calcio europeo e il calcio cinese è gigantesca. Ci sono dei valori immateriali che riguardano la tradizione, che riguardano ovviamente il tipo di competizioni che giochi, che non è che possono essere compensati soltanto dai soldi. No, ma diciamo soldi, che vai a seppellirti calcisticamente laddove non conta nulla. Parlavamo di Eto'o, tu ti ricordi quando passò a quella squadra russa, Eto'o aveva 31 anni, aveva già vinto tutto con tutte le maglie possibili. È una scelta, è una scelta che uno può anche fare. Io dico che non perché sia tra virgolette mio amico, perché abbiamo fatto la doppia gara insieme, che non è mio amico, insomma, anche se è una persona alla quale voglio in qualche modo bene, però quel tipo di scelta io l'ho capita, nel senso che comunque dopo che hai vinto tutto ci può stare l'idea avanza a una certa età di dire vabbè, sai che c'è, monetizzo per 2-3 anni e poi chi se ne frega. E penserò al futuro. Nel caso di altri giocatori è un po' diverso, perché nel caso di Oscar, ovviamente, mi sembra una follia dal punto di vista professionale. Certo. Però, ripeto, non è mai facile parlare di soldi, non è mai facile parlare di soldi degli altri. E detesto il moralismo, quindi insomma io credo lo detesto anch'io, ma è una domanda che mi faccio e qui non riesco a tornare alla risposta. Cioè, se arriva uno a Telepimpa e mi offre 10 volte i soldi guadagni adesso, vacillerei, e poi forse vado pure a Telepimpa, tanto per essere molto onesti. Non lo so, ragazzi, però... ma allora Pelé guadagna i soldi che guadagna Higuain in Cina. Guadagni sì, 7 milioni e mezzo di euro. Bisogna sempre vedere, secondo me, da una parte caso per caso, no? E poi il punto di partenza comunque è che, per esempio, Diego Costa guadagna già abbastanza bene, non è in una posizione, può vincere la Premier League, mi sembra, lì non si tratta di fare del moralismo, solo di guardare un po' com'è la vita, quella che può essere la vita di un calciatore o di una persona qualsiasi. Non lo farei, non so come dire, ecco, voi avete citato Oscar, Lavezzi, io ho qua un collega argentino che l'è andato a intervistare in Cina e diceva, insomma, io non avevo ancora finito, però ero in un momento in cui, ecco, la bilancia, i soldi messi sulla bilancia pesano di più di altre cose. Pelé è probabilmente uno di questi casi, perché... Ma sai, Pelé aveva una carriera modesta. Pelé ha avuto una carriera strana, è sempre all'estero. È andato comunque in nazionale, ha fatto il suo in nazionale, però guadagna quanto guadagna Higuain alla Juventus. Higuain è il giocatore più pagato d'Italia. Guadagnerebbe credo 1,5 milioni, dipende dal club ovviamente, però non di più. Potrebbe guadagnare come Kalinic, lo stesso 2 milioni, dai, 2 milioni se arrivi in un top club. Per lei un po' lo capisco, poi certo io pure. È il crollo del desiderio. Io Oscar proprio non lo capisco. Su Diego Costa francamente faccio fatica, perché è così bello giocarsi un campionato al Chelsea potendolo vincere la Champions l'anno prossimo, ma francamente no. Mi sembra che quello, no, quello però, fa... Kalinic la Champions non la vince, però guadagna 2 milioni più bonus presente... l'anno, là gli dicono 12-14 a 29 anni. Lì si vacilla. Quindi ti fai 3 anni, sono 3 anni importanti, i migliori anni della nostra vita, direbbe poeta, però ti porti a casa 36-40 milioni di... Cioè, ripeto, faccio fatica. È ovvio che ognuno di noi, comuni mortali, si accontenterebbe... Cioè, dalle carte di Football Leaks, tra le tante cose che sono emerse, al Pozzo Lavezzi sono stati versati in una banca lussemburghese, lasciando di nuovo da parte la moralità e tutto il resto, 55 milioni di euro per 20 mesi di lavoro. Ecco, secondo me la domanda, se vuoi invece, è un po' più filosofica, esistenziale, è che l'unica cosa che non puoi comprare realmente è il tempo, e poi tu puoi avere pure 200 milioni di... cioè, oltre una certa soglia, poi magari più guadagni... Ma mettiamolo più così, alta, decidi no? di cambiare lavoro, decidi di cambiare mestiere. Dirti, oltre una certa soglia, ma che ce fai questo? Cioè, voglio dire... È quello che già hanno guadagnato bene. È difficile spenderli, capito? Quindi, Filippo, tu non mi hai risposto, Filippo, andresti all'Ego di Topolinia per il 10 volte tuo ingaggio? Aspetta, vediamo qual è l'ingaggio di base. Se l'ingaggio di base è basso, sì. se l'ingaggio di base è già alto e le aspettative sono alte, no. Questo io ti rispondo così. Sì, cioè io penso che la vita di noi tutti, che per carità non credo ci si possa lamentare, però ovviamente facciamo lavori praticamente normali, è chiaro che se ti propongono 10 volte quello che guadagni non ci pensi neanche un minuto, perché ti cambia completamente la vita. Sì, caso di uno che già guadagna 4-5 milioni di euro all'anno, sì, in effetti, è quello, diciamo, per rispondere ti dico, se sono Kalinic sì, se sono Diego Costa no. Questo è chiaro. Su questo sono d'accordo con te, Filippo. Troviamo una via di mezzo, perché Kalinic da 2 a 14, insomma, ti cambia la vita e non giochi la Champions League, sei un eccellente giocatore, però sei in Serie A. Intanto è nella Liga anche Zaza, che va a prendere il posto di Prandelli come rappresentante, come portabandiera italiano. Dove ha sbagliato Prandelli? Io penso a Prandelli, dico chissà cosa starà pensando. Lui è andato via perché non arrivava Zaza, perché Zaza è arrivato, magari gli avevano promesso anche altri che forse non arriveranno. Per me, insomma, Cesare ha qualche errore l'ha fatto, nel senso che prima cosa di valutazione, che probabilmente non doveva andarsi a mettere in quel vespaio, perché lì è una situazione pessima e quindi... E dopodiché lì c'era solo una cosa da fare, attaccarsi ai giocatori per poi sferrare un attacco frontale alla proprietà, che è odiata dai giocatori, dai giornalisti, dai tifosi, quindi era abbastanza semplice. Una volta che hai firmato un contratto di 2 anni è difficile che ti mandino via, e invece lui, quando ha fatto la sparata contro i giocatori, ha dato un colpo decisivo anche al morale della truppa. E poi ci sono i numeri, voglio dire, comunque Prandelli ha fatto pochi punti, cioè ne ha fatti 6 su 24, quello che è l'allenatore interino che è venuto prima di lui e dopo di lui ne ha fatti 10 su 15, insomma, quindi qualcosa non ha funzionato. Questa cosa di Zaza, appunto, lui le cose sono precipitate, se n'è andato, io non me ne sarei andato così di corsa, però ovviamente anche qui di nuovo stiamo parlando di situazioni nelle quali uno non è completamente dentro, però una volta che si accetta di entrare in quella polveriera, e questo lo sapeva perfettamente, no, Cesare aveva voglia di allenare, io lo capisco, però una volta che ti metti in quel ginepraio, poi è sbagliato uscirne così repentinamente, ancora prima che si apra il mercato, poi è andato via ancora prima, no? che si aprisse il mercato. Per cui ha le sue... No, Pardo, dispiace, perché abbiamo grande stima molto per Prandelli. Io penso che sia un po' come quella scena della grande bellezza con Jeff Gambardella, che rinuncia a delle gesta erotiche e dice che è arrivata a una certa età, poi si è realizzato che non hai più voglia di fare quello che non ti va di fare. Io credo che Prandelli attraverso, se non voglio fare lo psicologo, non voglio fare l'avvocato difensore. Io penso che Prandelli sia arrivato in questa fase qui della sua carriera, che comunque è una carriera importante, anche se sicuramente gli è mancato qualche trionfo, e io penso a Kiev, con grande dolore, che è la finale con la Spagna, che avrebbe cambiato il senso della sua carriera, oltre che ci avrebbe regalato una grande gioia in quanto italiani. E penso che Prandelli sia, da questo punto di vista, sia uno che non ha voglia, non a tutti i costi, insomma, di rimettersi in gioco. Sicuramente in questo tipo di... Però allora perché è andato a Valencia, Pier? Però lo so, accettato... perché magari, perché comunque Valencia è un club prestigioso, i problemi c'erano e doveva sapere che c'erano, perché altrimenti sicuramente vorrebbe dire che è stato uno sprovveduto. Io penso che fosse, poi c'è sempre io ti cambierò, no? Io ti cambierò, però poi dopo, se vuoi cambiare, poi è un peccato andare via così in fretta, così, insomma... la gestione qua è stata molto molto strana, insomma. Io non sono così d'accordo su quello che dici, perché se tu dici che lui appunto è un momento come di rinuncia, come Gambardella, non doveva andare a Valencia, invece secondo me lui aveva ancora voglia, e poi la voglia gli erano fatta passare. Lui ha grande voglia, ed è rimasto un po' scottato dal tiro e molla con lo Tito, che da quello che insomma è da sapere era tutto fatto, a parte che poi l'ha detto anche Prandelli, la scelta dell'allenatore della Lazio alla fine si è rivelata azzeccatissima, che Inzaghi sta facendo un lavoro meraviglioso, però sicuramente Prandelli in quella trattativa lì c'era e è stato tirato un po' in mezzo da Rosito, quindi io credo che è un po' come per gli attaccanti che finché non ritrovano il gol, finché non si sbloccano, insomma, hanno rumore un po' giù, e Prandelli vive da quella finale lì, vive un momento sicuramente non brillantissimo. Anche, anche col Galatasaray, no? Tutto così. Non bene, fine... anche col Galatasaray non bene. È chiaro che non c'è bisogno di un successo. Poi non c'è campionato, no? C'è bisogno di una buona esperienza, no? C'è bisogno, sì. È arrivato il momento che vadano via le nuvole. Belé prova a sfondare da quella parte, arriva il cross, Munir così così e poi Colongi la mette dentro al volo al minuto numero 54 e avanti il Congo con il Junior Colongi 1-0. Sta arrivando velocissimo Belkhitter, c'è dentro Slimani, Mahrez, Riyad Mahrez con un'opera d'arte, un gol da pallone d'oro africano, porta in vantaggio l'Algeria. Mentre c'è Marco da Modena che telepimpa, la guarda sempre, gli piace molto, quindi aspetta che arrivi Pardo. Sì. In Africa le nuvole non ci sono mai, forse lì potrebbe andare Prandelli. No, c'è mio figlio che si è impallinato con la Coppa d'Africa, quasi quasi gli vieto la TV. Filippo. Bravo, Maria Ricci. Vedi di chiamarmi così. In quei pomeriggi da solo a guardare la Coppa d'Africa, io ci sarò stesso. Grande, grandissimo, molto bene. Divertente, dai. Non piace solo a me. No, più o meno piace solo a te e a mio figlio, perché Coppa d'Africa, sinceramente, io e Pardo ci asteniamo e i tifosi di mezzo mondo. L'Uganda col Ghana, attenzione, la finale del 78 che si ripete, no, 39 anni dopo. Attenzione all'Uganda, grande sorpresa, il mio amico Micio Sredojevic. No, dai, ci sono delle storie, chiaro, il livello è quello che è, lo diciamo sempre, ogni due anni ripetiamo che il livello è quello che è, però è interessante, c'è il fattore umano, tante storie, tanta passione. C'è le anche, I tifosi delle squadre di tutta Europa fanno il tifo contro quelli in cui giocano i loro giocatori, perché li rivogliono prima possibile. Carlo, parliamo di politica. Perché io sono d'accordo, è assurdo che la Coppa d'Africa si giochi ogni due anni e in gennaio. Però perché? Perché se la FIFA si è comprata i voti dell'Africa, certo. perché non è mica colpa non è colpa dell'Africa, o no? E in qualche modo racconta anche, diciamo, la direzione ostinata e contraria del continente africano, che certamente negli ultimi anni, con l'esperienza, per esempio, del Mondiale 2010. Si è seduto nel banco dei potenti, però continua ad avere tradizioni completamente diverse, completamente di segno opposto rispetto al resto del mondo efficiente occidentale. Però qualcuno glielo fa fare, però. Scusa, certo, glielo fanno fare perché si sono comprati i voti, e quindi andremo avanti così con i giocatori africani, spesso molto importanti. Mi viene in mente Salama, ce ne sono tanti. Ma penso Aubameyang, il PCC della Bundesliga, è ferma, però è abbastanza impressionante, secondo me racconta poi invece lo stile identitario, no? Poi Filippo ne conosce certamente di più sfumature e dettagli, cioè, nel senso che poi molti di questi giocatori sono, la maggioranza di questi giocatori sono impegnati, come Aubameyang, ma anche in Italia lo stesso Salah, sono giocatori impegnati in questioni importantissime, però nessuno rinuncia, chiedi la Ranieri, no? Certo. Grazie Phil, grazie Filippo. Ci andiamo per la finale. Ci andiamo per la finale. Pierluigi, saluto, abbiamo tuo figlio e niente, mi raccomando. Forza Uganda. Televisione vietata. Forza Uganda. Giulio, provincia di Latina, siamo quasi in chiusura di trasmissione. Giulio, dica. Sì, due cose veloce. La Cina sta comprando know-how. Credo che nel giro di 5 anni il campionato cinese verrà implementato da persone che stanno comprando come le figurine. Capiterà anche che fra 4 anni chiederanno a voi di fare una trasmissione come questa. La Cina ha sempre comprato know-how nella tecnologia, vero, il pane, e oggi pensa anche al circo, quindi credo che sia inevitabile questa cosa. Seconda cosa che volevo dire, molto veloce, sul moralismo contro Maradona, i geni, cioè l'impiegato del catasto quando parla dei geni dovrebbe forse pensare in modo diverso o omettere. Lui rappresenta la genialità, è stato Maradona nel calcio quello che è stato Mozart nella musica classica. Maradona è Giulio, Maradona è arte contemporanea, esatto. No, è ma lo so, lo dico da artista e da musicista, quindi vuol dire gli impiegati del catasto non parlassero di Maradona. Buon pomeriggio. Però la grandezza di Maradona, anche competitività che alla fine c'è comunque si acceso una discussione molto, molto interessante, anche un po' appunto accesa. La grandezza di Maradona sta anche in questa sua capacità di dividere, cioè Maradona non è tra virgolette uomo di pace, nel senso non è uomo sul quale si può fare 3-0, non è uomo sul quale io condivido, io Maradona lo amo, nel senso che penso che sia un artista, non sono spesso d'accordo con lui, ma lo amo per la sua libertà, per la sua genialità, per quello che è, però riconosco anche che sia legittimo anche essere contrari. In fondo Maradona non vuole che si faccia 0-0 su di lui. No, assolutamente. La cosa che più umiliante per Maradona anche adesso con le parole e con le provocazioni è passare inosservato e risultare indifferente. Lui o lo ami oppure non sei d'accordo con lui. C'è poco da fare. Sul know-how dei cinesi, voglio dire, è molto interessante. Ascolta, senti, cosa dici se ci torniamo domani, perché abbiamo finito il tempo? In 10 secondi ti dico che la tradizione però non si compra, e quindi possono fare i migliori stadi, eccetera, i migliori campi di allenamento. Però poi alla fine la gente vuole che il Real Madrid giochi contro il Manchester United. Sì, però il discorso è estremamente interessante, Pier, perché con quei soldi puoi imbottigliarla e portarla di là. Guarda, sta accadendo in effetti, secondo me, qualcosa di irreale. Argomento che merita più tempo, più spazio, cosa che non abbiamo più. Ringrazio Pierluigi Pardo, naturalmente, Gianmarco Ferronati in regia e Alessandro Marco Turni, autore di questo programma. A domani.